Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tra poche ore il via alle Olimpiadi invernali di Sochi. Test di fronte al mondo per la Russia di Vladimir Putin. Per l'Italia si parte subito forte. In pista domani il portabandiera Zögler. Stamina, nuovo capitolo giudiziario per Davide Vannoni, rinviato a giudizio per tentata truffa alla Regione Piemonte. Avrebbe provato ad ottenere finanziamenti per 500.000 euro. I giudici della Corte Costituzionale tedesca, il piano Draghi per l'acquisto di titoli è andato oltre il mandato della BCE, ma la decisione finale viene rinviata alla Corte Europea. A me conviene votare, all'Italia no. Così Renzi all'indomani della direzione del partito. 2 settimane di tempo a Letta che dice non voglio galleggiare. A quasi una settimana dal diluvio, Roma fa i conti con nuove buche e vecchi problemi. Sulle Dolomiti invece si piange su una stagione turistica rovinata, troppa neve. Apre domani al pubblico a Bologna la mostra con la ragazza con l'orecchino di perla. Già 100.000 prenotazioni, si prevede un afflusso enorme. Sottocultura, dice Filippo Daverio. La società ha bisogno di icone, replica Bonito Oliva. Le interviste ai due critici tra poco. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che se volete potete commentare al 349-238-6666 via SMS oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. In apertura dunque le Olimpiadi di Sochi, la sua voce l'avete sentita un attimo fa nel promo della trasmissione che andrà in onda come sempre alle 2, c'è Carlo Genta in studio con noi, partiamo dalla parte sportiva. Carlo, dunque, ciao, eccoci. Simone, buongiorno. Ciao a tutti. Allora, parte sportiva che non ovviamente non è di oggi, perché oggi c'è la cerimonia di apertura. Domani, l'hai detto tu prima, l'hai annunciato tu prima, c'è Armin Zögler nello slittino con Fischnaller e Rieder, 15.30, 17.40, se volete segnatevi gli orari, domani naturalmente. Non si assegna la medaglia che verrà segnata domenica, però si definisce in sostanza la griglia di partenza. Sul ghiaccio domani anche Carolina Kostner, anche in questo caso non si assegna la medaglia ma si comincia a testare il ghiaccio con il team event di pattinaggio di figura 17.10, poi lo skiathlon femminile, pattinaggio di velocità con Andrea Giovannini nei 5.000 metri e qui sì che si assegna la medaglia, freestyle, biathlon, salto e tutti questi sport che alla fine guardiamo solo quando ci sono le Olimpiadi, diciamoci la verità. Anzi, oggi vorrò chiedere agli ascoltatori, ma a voi quanto ve ne importa delle Olimpiadi invernali? A me è abbastanza, medio. Tutto sommato. Una moglie forte sciatrice, quindi sì. Insomma, su queste cose ci sono abbastanza. Non riesco a saltare in piedi sul divano quando vedo quegli spazzoloni sul ghiaccio. Poi lo so che oggi mi insultano, ma devo dire la verità, mi pagano per questo. 800-24-00-24 a partire dalle 2 per rispondere anche a questa domanda. Ma si gioca molto di più in questa Olimpiade che l'aspetto sportivo, naturalmente. Si gioca, se vogliamo, la faccia Vladimir Putin. Ultimi preparativi a Sochi per il momento più atteso dei giochi olimpici che inizieranno ufficialmente alle 20.14 di questa sera, le 17.14 in Italia, le prime Olimpiadi d'inverno della Russia. Non è certo il terribile inverno russo che ci immaginiamo quello che ha accolto in questi giorni gli spettatori arrivati a Sochi, dove c'è un tempo splendido, anche se in montagna Krasnaya Poliana la neve non manca. Aspetta dunque alla cerimonia di apertura a creare l'atmosfera. C'è grande curiosità perché gli organizzatori hanno creato aspettative sullo spettacolo, considerato praticamente un segreto di Stato, anche se a poco sono filtrati alcuni particolari. Sarà una presentazione in grande stile delle tappe più importanti della storia russa. Rivivranno lo spirito di Gogol e di Pietro il Grande. Ma i due grandi interrogativi riguardano il modo in cui verranno presentati gli anni più controversi della storia sovietica, se in qualche modo verrà evocato il nome di Stalin, e poi il ruolo che invece si sarà ritagliato Putin in questo momento, che per il presidente russo dovrebbe essere una presentazione al mondo di una Russia inattesa, moderna e accogliente. Un'immagine decisamente lontana da quella emersa nei tanti scandali che hanno accompagnato la preparazione dei giochi. Questa sera Putin ha qualche ora per convincere il mondo del contrario. Antonella Scottola di 24 sulle 24 ore, Sochi. All'ombra di tutto questo, naturalmente, anche come ci diceva già Antonella Scotta, le vicende dell'Ucraina, sulla quale si sta concentrando in queste ore un scontro diplomatico arrivato da una sorta di intercettazione pescata tra le parole di un sottosegretario agli esteri americano, Victoria Nuland, che parlando appunto con l'ambasciatore americano in Ucraina ha detto fuck the EU, letteralmente l'Unione Europea. Si fotta così la Newland, l'Unione Europea replica proprio in questi minuti, dice: le intercettazioni private non fanno parte del set di strumenti che utilizziamo per aiutare l'Ucraina e non le commentiamo mai. E per Merkel invece, che fa parlare una sua portavoce, dice: queste parole sono assolutamente inaccettabili. Vedremo come evolverà la vicenda. Noi veniamo all'Italia invece, perché questa mattina c'è stato un rinvio a giudizio per Davide Vannoni, il patron, per così dire, del controverso metodo Stamina. Filomena Greco, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, così è stato rinviato a giudizio questa mattina Davide Vannoni dal Tribunale di Torino. La decisione, lo ricordiamo, è arrivata durante l'udienza preliminare nell'ambito del provvedimento che vede l'ideatore del metodo Stamina imputato a Torino per il reato di tentata truffa ai danni della Regione Piemonte. Il processo poi comincerà il 3 aprile prossimo. Si tratta, è bene dirlo, di un filone di indagine che si affianca in realtà a quello seguito da Raffaele Guariniello, ormai alle sue battute finali, e incentrato sulla somministrazione vera e propria della terapia Stamina da parte di Vannoni ad ammalati con patologie rare. In questo caso la procura ipotizza reati più gravi: associazione a delinquere finalizzata alla truffa, somministrazione di farmaci imperfetti e pericolosi e esercizio abusivo della professione medica. Questa mattina Vannoni ha commentato la decisione del GUP, non era in aula, ma ha detto: mi aspettavo che finisse così e spiegheremo tutto in aula. La vicenda comunque risale al 2007, con la richiesta da parte di Vannoni di finanziamento, poi però in realtà non ottenuto, per 500.000 euro, finalizzato proprio all'apertura di un laboratorio di cellule staminali con documentazione scarna, un comitato scientifico fantasma e 6 casi risultati, secondo gli inquirenti, falsi. Grazie a Filomena Greco per questi aggiornamenti. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Novartis e Italfarmaco per verificare l'esistenza di una possibile intesa restrittiva della concorrenza. C'è stata un'intesa sul costo dei farmaci tumorali da parte di Novartis Pharma e Italfarmaco, che ha ristretto la concorrenza delle altre società farmaceutiche. È quello che sospetta l'autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha deciso di avviare quindi un'istruttoria nei confronti delle due società per verificare appunto l'esistenza di una possibile intesa restrittiva della concorrenza realizzata in occasione delle gare bandite da 3 regioni italiane per la fornitura di un farmaco per la cura di alcune tipologie di tumori. Sotto esame, secondo l'autorità, sono i comportamenti delle due aziende in occasione delle gare bandite da Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto tra il 2010 e il 2013, con possibili effetti negativi sul costo dei farmaci a carico degli enti sanitari. Il procedimento è stato avviato alla luce di una segnalazione dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altre due notizie di pochi minuti fa: la Guardia di Finanza sta eseguendo una perquisizione negli uffici della ASL di Benevento, sulla cui gestione, come sapete, è in corso un'inchiesta della Procura, è quella che coinvolge anche l'ex ministro Nunzia De Girolamo. E poi, altra notizia che riguarda un'inchiesta della quale vi abbiamo parlato ieri, quella che riguarda l'Agenzia Spaziale Italiana, per la quale è indagato anche il presidente Enrico Saggese, il quale ha messo a disposizione il suo mandato nelle mani del ministro Maria Chiara Carrozza. In sostanza, di fatto, sono delle dimissioni. Ci spostiamo a Roma adesso. Ad una settimana dal diluvio, nuove buche si scoprono nel terreno e si prospettano tempi lunghissimi per il riassesto di alcune vie della città. Dopo l'emergenza maltempo arriva l'emergenza buche, un problema annoso per la capitale, ma acuito dal nubifragio di qualche giorno fa. I danni provocati sulle strade sono quantificabili in 243 milioni di euro. Si contano 2.000 buche tappate ogni giorno per un totale di 430 tonnellate di asfalto. 3 cantieri aperti, quello lungo via del Foro Italico che collega la tangenziale est allo Stadio Olimpico e la Galleria Giovanni XXIII, un'arteria molto importante per la città, e i lavori lì, ha detto lo stesso stesso sindaco Marino, dureranno tra i 4 e i 6 mesi. Buche e voragini che stanno mettendo a dura prova la mobilità e anche la pazienza dei romani. Sono una quarantina gli incidenti causati dalle buche in questi giorni. Secondo l'associazione dei consumatori ADOC, il 5% dei romani, tassisti compresi, ha dovuto spendere in media 150 euro per un nuovo pneumatico a causa del maltempo. Il sindaco Marino ha intanto assicurato che entro l'anno il manto stradale verrà rinnovato completamente. I cittadini di Roma colpiti dai danni dovuti al maltempo dei giorni scorsi potranno anche accedere alle risorse messe a disposizione dal comune, circa 10 milioni che arriveranno alla fine della prossima settimana. Così ha assicurato Marino. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E torneremo sugli effetti del maltempo di queste ore e di queste settimane più avanti per parlare della situazione sulle Dolomiti, dove di fatto la stagione sciistica è stata rovinata dal grande numero, dalla grande neve che è arrivata appunto e che ha creato moltissimi problemi, tra cui la chiusura di una serie di impianti, problemi naturalmente che riguardano anche le slavine e anche la corrente elettrica. Veniamo all'economia adesso per parlare della tanto attesa decisione della Corte Costituzionale tedesca sul programma di acquisto di titoli varato dalla Banca Centrale Europea. Una decisione con rinvio all'Europa in realtà. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, ti ritroviamo anche oggi, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, che cosa ha deciso nella sostanza la Corte di Karlsruhe? La Corte ha deciso di non decidere, nel senso che dopo lunghi mesi di deliberazioni hanno espresso un parere, 6 degli 8 giudici, perché 2 hanno pubblicato una posizione dissenziente secondo cui la Corte tedesca non era nemmeno competente a decidere. Comunque diciamo che la Corte di Karlsruhe ha espresso un parere secondo cui, a suo avviso, la decisione della BCE, che come si ricorderà era stata fatta da Draghi per cercare di salvare l'euro in un momento di grandissima difficoltà, questo piano secondo loro viola, va al di fuori dei poteri della BCE espressi nel suo mandato, quindi dai trattati europei. Però ha rimandato la patata bollente alla Corte europea e la Corte europea molto difficilmente, anche se ci vorranno alcuni mesi, si pronuncerà contro la BCE. Quindi possiamo definirlo un verdetto favorevole alla BCE, anche se ovviamente creerà uno stato di incertezza ancora per un certo periodo, uno stato di limbo, e soprattutto la BCE probabilmente si muoverà con una certa circospezione nelle sue prossime decisioni per evitare di urtare ulteriormente le suscettibilità della Corte tedesca, ma alla fine l'OMT passerà col viatico della Corte europea. Grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. In effetti, con questa decisione che porta ad un'attesa, i mercati sono poco mossi. FTSE MIB più 0,10%, FTSE O'Share più 0,07%. Come sempre, approfondiremo alle 13.30 la situazione dei mercati. Prosegue il nostro viaggio nei paesi emergenti, che i mercati li hanno spaventati parecchio nelle settimane scorse. Oggi la nostra puntata conclusiva, cerchiamo di fare un punto generale. Meno crescita e più rischi. Il 2014 non sarà un anno facile per i mercati emergenti. Le avvisaglie si sono viste in gennaio, quando gli investitori hanno abbandonato precipitosamente valute e borse in Asia e America Latina. Le prime vittime a cadere sotto i colpi delle vendite sono stati il peso argentino, crollato del 17% in pochissime ore, e la lira turca. Negli ultimi giorni, intanto, sembra tornata una relativa calma, ma nessuno è pronto a scommettere sulla fine della bufera. Molto dipenderà dal ritmo con cui la Federal Reserve ritirerà la liquidità. Più sarà rapido, maggiori saranno le turbolenze sugli emergenti. C'è però una debolezza di fondo che sta emergendo e che non dipende dalle politiche della Fed. Dopo gli anni della grande crisi finanziaria, in cui i BRICS erano sembrati i salvatori del mondo, ora stiamo assistendo a un ritorno alla normalità. Gli emergenti restano sì i paesi con i più alti tassi di crescita, ma sono anche diventati più rischiosi. Ognuno ha le sue debolezze. Cina e India non corrono più come qualche anno fa. Russia e Brasile pagano la carenza di investimenti. Il boom economico di Turchia e Indonesia è troppo dipendente da consumi e credito. In molti casi è poi riesploso il rischio di instabilità politica. Le rivolte di piazza in Thailandia, Turchia e Ucraina sono un campanello di allarme che suona per tutti. Insomma, se le imprese a caccia di nuovi consumatori continueranno a investire negli emergenti, dovranno però fare i conti con una serie di incertezze che sembravano svanite. e gli investitori che negli anni scorsi avevano inondato borse e valute a tutte le latitudini, d'ora in avanti saranno più selettivi. Gli emergenti, insomma, non sono tutti uguali. Se paesi come Argentina e Turchia appaiono oggi più rischiosi, altri come Messico e Polonia sembrano avere tutte le carte in regola per continuare ad attirare capitali. Gabriele Meoni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la politica, con quello che sta succedendo all'interno del PD, all'impatto sul governo. Nelle novità di oggi, Vincenzo Miglietta, eccoci. Sì, buongiorno. Dibattito politico che ruota in queste ore sull'ipotesi o meno di una staffetta a Palazzo Chigi tra Letta e Renzi. Ieri nella direzione del PD si è fissata una data per un chiarimento definitivo, il prossimo 20 febbraio, quando tornerà a riunirsi il parlamentino di Via del Nazareno. Questa mattina intanto il sindaco di Firenze ha spiegato: a me conviene votare, ma all'Italia no. Siamo a un passo da una riforma storica, Senato, province, legge elettorale, titolo quinto della Costituzione. Il leader del PD esclude poi un suo governo insieme a Berlusconi. Il Cavaliere invece, secondo fonti di Palazzo Grazioli, non boccerebbe, qualora ci fosse una staffetta Letta-Renzi, l'ipotesi di appoggiare quest'ultimo per portare a termine la nuova stagione di riforme e prendersene poi il merito a ridosso del voto. Da Letta ufficialmente la strategia non cambia: portare avanti il lavoro del governo e ricordare i risultati raggiunti. Lega e 5 Stelle infine Renzi parla, ma sul decreto IMU Banca Italia neanche un accenno, dice Grillo. Io confido in Renzi, spiega invece Maroni. Se vuole fare una riforma costituzionale gli concedo un'apertura di credito, ma spero non siano i soliti giochini romani. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Saluto Maria Cecilia Guerra, vice ministro al lavoro con delega alle pari opportunità. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, le chiedo di aspettare ancora un attimo, dobbiamo sentire cosa succede sulle strade e poi parliamo con lei. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Tra poche ore il via alle Olimpiadi invernali di Sochi, test di fronte al mondo per la Russia di Putin. Stamina, nuovo capitolo giudiziario per Vannoni, rinviato a giudizio per tentata truffa alla regione Piemonte. I giudici della Corte Costituzionale tedesca, il piano Draghi per l'acquisto di titoli è andato oltre il mandato BCE, ma la decisione viene rinviata alla Corte Europea. A me conviene votare, all'Italia no, così Renzi all'indomani della direzione del partito. E dunque eccoci col vice ministro al lavoro con delega alle pari opportunità, Maria Cecilia Guerra. Di nuovo buongiorno, eccoci. Buongiorno. Allora, prima di affrontare il tema per il quale le abbiamo chiesto di venire in diretta con noi, il fatto che ieri lei è andata in visita alla ragazza di 19 anni ridotta in coma dal suo compagno che l'ha picchiata, insomma parliamo di una vicenda che è avvenuta a Roma e che forse nei giorni scorsi abbiamo un po' sottovalutato, e poi per parlare anche del piano antiviolenza che sta finalmente arrivando ad una quadra, le vorrei fare una domanda proprio per la delega che ha sulle vicende di Sochi, perché tante polemiche si sono addensate in queste ore sulla presenza del Presidente del Consiglio visto il fatto appunto che, come si sa, la Russia non è un paese particolarmente attento ai diritti degli omosessuali e anzi ha varato delle leggi molto restrittive. Qual è il suo giudizio da questo punto di vista? Capisco che fa parte del governo, però le chiedo di parlarmi fuori dai denti, insomma. Letta ha fatto bene oppure no? Non era il caso di mandarci qualcun altro? Chiaramente la valutazione che il Presidente del Consiglio ha fatto tiene conto di un insieme di fattori, comprese le relazioni fra Italia e Russia, che esulano dalle mie competenze. Credo che sia importante che venga sottolineato che questa presenza non significa in alcun modo un avallo alle politiche di discriminazione molto forte che la Russia sta mettendo in atto nei confronti delle persone omosessuali e che si accompagnano anche a posizioni molto dure che la Russia prende nei consessi europei, in cui l'Italia ovviamente non le va dietro. Quindi la nettezza di questo messaggio deve arrivare, sarà poi il compito del Presidente del Consiglio, così come ha dichiarato, rendere molto evidente la separazione fra questi due aspetti: la partecipazione a un evento sportivo anche in funzione di una candidatura successiva alle Olimpiadi per il nostro paese, e invece ciò che l'Italia pensa sui diritti umani, che non può essere ovviamente e non vuole essere merce di scambio. Questo per quanto riguarda Sochi. La voglio portare alla visita che ha deciso di fare ieri appunto all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova questa ragazza Chiara Insidioso Monda, 19 anni, è stata picchiata dal compagno e adesso in coma. Vorrei capire che situazione ha trovato, immagino che abbia anche parlato con i familiari. Vorrei innanzitutto dire perché sono andata. Sono andata perché credo che il tema della violenza nei confronti delle donne sia un tema così importante che non ci possiamo permettere dei silenzi. In un qualche modo questo avvenimento è nella sua tragicità assolutamente simbolico, significativo della necessità di presidiare il tema della violenza, di contrastarlo proprio nella radice fondamentale che ha, che è nei rapporti di coppia, nelle relazioni amorose. Quindi è stata una visita, diciamo, politica da questo punto di vista. Ho avuto il permesso, ma non ho parlato con i familiari, anche perché la mamma è assolutamente sconvolta, era presente, ma non mi sembrava il caso, non volevo disturbare, interferire, c'era proprio una remora di tipo personale. Il padre in quel momento non era presente. Ho visto la ragazza, ho parlato soprattutto con i sanitari. Dal punto di vista di questa esperienza, ripeto, si tratta di un episodio di assoluta tragicità, però è importante per chi anche come me si occupa di questi temi rendersi conto anche di persona di che cosa possa significare la violenza, per trovare anche ulteriore motivazione a con la propria testimonianza e col proprio impegno di governo a cercare di trovare soluzioni. Le chiedo brevemente, Vice Ministro, di aiutarci a capire che cosa prevede il piano antiviolenza che state sostanzialmente finendo di elaborare e che tempi prevede. Il piano agisce in sintesi su due piani diversi. Uno che è quello della prevenzione in senso stretto. Ci siamo organizzati, lavorano a questo piano tutte le amministrazioni centrali, le regioni, i comuni e nei sottogruppi in cui ci siamo organizzati anche le associazioni più rappresentative esperte proprio di violenza nei confronti delle donne. E praticamente il piano prevede, dal punto di vista della prevenzione in senso stretto, di intervenire nella fase dell'istruzione, dell'educazione delle persone, per educarle appunto all'affettività, a relazioni equilibrate, all'autonomia nella relazione, e per prevenire appunto la violenza, che spesso rappresenta il risultato di insicurezze reciproche, e la comunicazione, perché sappiamo che una comunicazione che rappresenti la donna, il corpo della donna, in un modo come spesso avviene anche purtroppo nel dibattito politico, può essere prodromica a questi fatti. Gli altri insiemi di interventi riguardano invece l'accoglienza delle persone che sono oggetto, delle donne che sono oggetto di violenza, e mettendo in rete le esperienze di medici, forze dell'ordine, procure, servizi dei comuni e appunto dell'associazionismo, e formando le persone che entrano in contatto con le donne offese, in modo che possano dare l'aiuto professionale che è necessario, professionale e informato, e anche ci stiamo occupando di valutare tutte le possibili vie per un reinserimento sociale e lavorativo delle persone che hanno subito violenza. Tempi e risorse necessarie. Molto brevemente, Vice Ministro. I tempi sono avanzati, i passati burocratici potranno richiedere ancora 2 mesi, perché dobbiamo passare anche per l'approvazione ufficiale in conferenza unificata, ma il piano è già praticamente alle ultime battute, ma soprattutto mentre lo scriviamo stiamo anche già mettendo in piedi tutti gli elementi che sono rendono possibile un'immediata applicazione. Risorse? Quindi è come dire che lo abbiamo già in parte realizzato. Risorse necessarie? Risorse, abbiamo a disposizione risorse dedicate, 10 milioni all'anno per 4 anni a partire dal 2013, ma anche molte di queste attività vengono fatte nell'ambito delle attività proprie dei ministeri, ad esempio per quanto riguarda la formazione degli insegnanti o piuttosto quella delle forze dell'ordine. È evidente che si tratta più che altro di prevedere che una parte delle risorse che già vengono destinate a questi scopi sia destinata alla formazione specifica per quanto riguarda la violenza sulle donne. Grazie a Maria Cecilia Guerra, Vice Ministro al lavoro con delega alle pari opportunità, e buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi. Noi adesso cambiamo argomento e torniamo sul maltempo che ha colpito l'Italia. Insomma, abbiamo raccontato tanto di Roma, abbiamo raccontato tanto del Veneto in pianura, ci spostiamo adesso sulle Dolomiti, perché di fatto, da quel che ho capito, Gildo Trevisan, presidente di Federalberghi Belluno Dolomiti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Da quel che ho capito, stagione rovinata. Ma non è del tutto vero, nel senso che qui non si tratta, non c'è stata nessuna catastrofe naturale, nemmeno una calamità naturale, perché semplicemente è piovuto e nevicato, soprattutto in quota, quindi questo stato di cose ha visto tutti i montanari che sanno reagire bene a questa condizione operare al fine che tutto rientri quanto prima possibile. Faccio notare che non abbiamo avuto neanche un morto, quindi non si può parlare di catastrofi in questo momento. Certo, però tantissima neve, quindi anche problemi di, per esempio di elettricità, di tetti crollati e cose di questo genere. Ma guardi, è una legge naturale, quando le cose sono in abbondanza alcuni, i soggetti deboli soccombono, quindi quello che è successo, che ha determinato anche il crollo di alberi, è dovuto al fatto che le piante più deboli in un inverno che si può considerare eccezionale, anche per clima mite, paradossalmente, sale, quindi anche le piante non erano cementate alla base, nelle radici, perché qui in montagna quando fa freddo il gelo interessa un metro di profondità, quindi le piante sono crollate dall'eccessivo peso della neve che ha anche purtroppo fatto cadere anche le linee elettriche. Nicola De Stefano, subcommissario alla protezione civile della provincia di Belluno, come vanno le cose? Ieri abbiamo fatto un incontro con i sindaci e tutte le componenti della protezione civile presso il centro operativo di Cencenighe, poco fa lo abbiamo fatto a Santo Stefano di Cadore con i sindaci del Comerico e adesso alle 14.30 lo faremo presso il centro operativo misto di Borca di Cadore, un po' per fare il punto. E fin qui siamo all'agenda De Stefano, invece sulla sostanza? Per quanto riguarda gli altri aspetti che concernono ovviamente i danni, su questo la Regione ha già adottato un decreto che dichiara lo stato di crisi, si è discusso anche di questo, ma ovviamente i tempi sono prematuri per quantificare, i comuni sono stati ovviamente invitati già a individuare quelle che sono state le loro emergenze, priorità e gli interventi e su quello poi si vedrà, perché chiaramente la Regione ha fatto presente che intanto occorre far presto e presentare relativa documentazione. Trevisan, avete fatto un po' troppo da soli, all'impressione? Ma io direi di no, tutti si sono attivati al fine che la situazione rientrasse. Io volevo comunicare a tutti coloro che ascoltano Radio 24 che in provincia di Belluno in questo momento basta un raggio di sole e tutto è magnifico, quindi chi vuole far vacanza lo può fare. L'anima del commercio, va bene, grazie Gildo Trevisan, grazie Nicola De Stefano, buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E ci sono due notizie appena arrivate a proposito che vi devo dare. La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 7 anni e mezzo di reclusione per l'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, accusato di essersi impossessato di oltre 25 milioni dei fondi destinati al partito. L'altra notizia invece riguarda Beppe Grillo. Questa mattina si erano diffuse notizie sul fatto che fosse indagato dalla Procura di Genova per le dichiarazioni rivolte alle forze di polizia nei giorni della protesta dei Forconi. Poi era stata smentita questa indagine dal procuratore capo di Genova Michele Di Lecce. Ebbene, Di Lecce ha detto che su Beppe Grillo, per la lettera aperta ai capi delle forze di polizia, sono arrivati numerosi atti da diverse procure, dove, ha detto ancora Di Lecce, risulta già indagato. E veniamo alla vigilia dell'apertura della mostra con la ragazza con l'orecchino di perla, capolavoro di Vermeer, diventato un'icona planetaria dell'arte. Allestita a Palazzo Fava a Bologna, nella rassegna più attesa dell'anno si prepara una prima notte bianca domani, giorno inaugurale, con ingressi fino a 1 di notte. È salito a 110.000 il numero dei biglietti prevenduti per la mostra. Le prenotazioni continuano a pervenire con un ritmo di 2.000 al giorno, dice Marco Goldin, che è il curatore, il patron di Linea d'Ombra, che ha prodotto l'evento. La risposta del pubblico dunque è entusiasta, ma perché e soprattutto ha un senso? Adriana Fracchia lo ha chiesto a due critici e curatori molto noti, Filippo Daverio e Achille Monito Oliva, con due opinioni diverse. La roba della sottocultura, ci sono sempre dei miti pop di ogni genere che si creano, si rigenerano regolarmente. Questa faccenda delle orecchie di perle è un mito pop, è una bellissima Barbie, è legato alla cultura della scatola dei cioccolatini, ma non ho capito perché uno deve vedere la ragazza con l'orecchino e non la ragazza della porta accanto, cioè che discorso è? È mica un obbligo aver visto la ragazza all'orecchino, non serve a niente vedere la ragazza all'orecchino, o uno va a vedere il mondo della pittura olandese e allora vede quello, vede altri quadri di Vermeer, vede le cose di Peter Klaas, vede qualcosa, ma cosa vuol dire vedere la ragazza con l'orecchino? Nel senso ha tutta una roba decontestualizzata, cioè non vuol dire niente, è come vedere una collezione di mosche, questo meccanismo è diventato un circo itinerante. È perché dopo un periodo breve si esaurisce di solito il cliente, no? Che è poi l'ente pubblico, e bisogna trovare un nuovo cliente. La domanda è corretto andare a sciupare delle risorse per una cosa un po' circente, o sarebbe forse più intelligente a Bologna dare la mano alla sopravvivenza del Museo dell'Accademia, che è un museo importante dove esiste l'identità della città attraverso i grandi pittori del 600, del 1200 avanti. Io ritengo che la società di massa ha bisogno di icone, perché ha bisogno di concentrare la propria attenzione su dei miti collettivi. Allora, nell'arte non è solo l'opera a creare un'aura, un'atmosfera preziosa, ma anche la vita dell'artista. In questo caso il successo sono stati fatti dei film con Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, Van Gogh, che si taglia l'orecchio e lo dona a Gauguin. Dunque queste traversie della vita spesso sviluppano nel pubblico una grande curiosità. Questo quadro di Vermeer è un grande capolavoro e diventa una chiappa sguardi, serve per canalizzare l'attenzione del pubblico, e come la Gioconda di Leonardo. Quindi non c'è da meravigliarsi né da scandalizzarsi. Che poi sia un'operazione pop, ma pop significa popolare. Ora ritengo che in ogni caso è bene che si faccia vedere un quadro come questo, come la ragazza all'orecchino. Io non mi scandalizzo per nulla. Io trovo che l'arte non vuole rimanere sola, ha bisogno di compagnia, e il pubblico è quello che ne onora l'esistenza. Il mondo dello spettacolo ci porta negli Stati Uniti. A couple weeks ago, President Obama called me, told me personally, if I like my current job, I can keep my current job. Well, and I believe it. Yeah, I believe it. È finito tra le lacrime il lungo addio di Jay Leno al Tonight Show della NBC. Il noto comico americano, 22 anni fa, aveva preso il posto del leggendario Johnny Carson e lascia. Ieri sera l'ultima puntata del suo programma di punta nella seconda serata della TV americana, che ora tornerà a New York, dove è nata la trasmissione. Il passaggio di mano è stato provocato probabilmente da un calo degli ascolti. Come ogni venerdì è il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi, dedicata in questo venerdì a Matteo Renzi ed Enrico Letta. C'è qualcosa che viene da lontano, che sa di antico. Nello scontro tra il presidente del Consiglio Enrico Letta e il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, quello che va in scena in questi giorni è dunque il confronto tra due mondi contrapposti, inseriti però nell'identica tradizione democristiana. Letta infatti proviene dall'ultima nidiata di giovani DC, quelli che si formano mentre il grande partito si sgretola sotto i colpi di Tangentopoli nei primi degli anni 90. Letta avverte in quei giorni la mancanza di prospettive e di progetti politici dell'ultima DC e avvia insieme ad altri il percorso dei popolari, poi dell'Ulivo, della Margherita, fino alla costituzione del Partito Democratico, la nuova grande mamma che dovrebbe unire gli eredi della tradizione comunista e socialista italiana e quelli provenienti dal mondo cattolico progressista. Renzi invece è figlio della cultura cattolica di base, quella impegnata nel volontariato, nel territorio, lo scautismo, la Gesci, le ACLI, gente che non si presta a giochetti di bottega al dietro alle quinte del potere e che si spende per soluzioni concrete. A molti attenti osservatori di cose politiche, l'assemblea del PD di ieri pareva non dissimile nelle forme e nelle modalità a quelle vecchie riunioni democristiane quando Amintore Fanfani mirava la poltrona di Alcide De Gasperi, Aldo Moro premeva per estromettere Amintore Fanfani dalla scena, Arnaldo Forlani premeva per mettere fuori gioco Ciriaco De Mita. Giulio Andreotti tesseva la sua abile ragnatela diplomatica all'interno e all'esterno del partito, costruendo alleanze prima con il Partito Comunista negli anni del buio del labirinto del terrorismo e anni dopo con Craxi e Forlani per prendersi l'Italia attraverso il progetto del CAF. Insomma, non c'è proprio nulla di nuovo in questa nuova diatriba democristiana. Perché, esattamente come ai vecchi tempi, con ogni probabilità, la cosiddetta staffetta sta già nelle cose. Matteo Renzi diventerà presto premier e per Enrico Letta è già pronta una bella poltrona in Europa. Un'altra notizia appena battuta dalle agenzie: la procura di Torino ha chiuso l'inchiesta sulle mozzarelle che fuori dalle confezioni assumevano una colorazione blu, ve lo ricorderete. 4 gli indagati, 2 tedeschi e 2 italiani. Si ipotizzano i reati di vendita di alimenti non genuini e commercio di alimenti in cattivo stato di conservazione. Sentiamo cosa succede sulle strade. Un'ultima notizia prima di chiudere, di nuovo riguarda Beppe Grillo, perché la procura di Torino ha chiesto di condannare a 9 mesi di reclusione Grillo al termine di un processo legato a una delle dimostrazioni dei No Tab in Val di Susa. Si tratta della costruzione abusiva di una baita nel dicembre 2010 diventata simbolo del movimento. Ed è veramente tutto per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, a Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre e tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna lunedì alle 13. Noi ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio.